la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Questa è la prima volta di Yassine Rashik, nato a Casablanca nel 93, capace di correre veloce ma non abbastanza forte e solo un bambino per convincere lo zio a farlo partecipare alle gare di atletica. Yassine lo sa che se corre è felice, ma lo zio, che lo alleva come fosse un figlio, preferisce per lui il karate. Forse è proprio questo ostacolare bonario a rendere più forte il sogno. Yassine si immagina su una pista, correre velocissimo fino a strappare il traguardo prima di tutti. E a un certo punto questo avverrà. Succederà in Italia, quando arriverà a 11 anni con la madre per ricongiungersi al padre. Tra gare scolastiche e primi tornei provinciali, Yassine si afferma fino a vincere gare nazionali. Ora dovrebbe partecipare agli europei, ma non ha la cittadinanza. Signora Yassine Rashik, giusto? Sì. Io ho letto la sua storia tramite change.org. Mi è piaciuto molto anche il suo livello di combattività nel voler ottenere le cose in maniera... Ma non è così semplice, però ci sto provando sinceramente. Ecco, però per spiegare bene ai nostri ascoltatori, partiamo dall'inizio. Lei è nato nel 93 in Marocco. Sì, e... sono nato l'11 giugno nel 1993 in Marocco, a Casablanca. E poi cosa è successo? È stato lì per parte della sua vita con i suoi genitori? Niente, diciamo che sono cresciuto in Marocco fino a quando avevo 10 anni. E dopodiché mio padre era qua, era già qua in Italia, e ci ha mandato per ricongiungimento familiare, ci ha fatto i documenti, ci ha portato qua in Italia, io e mia mamma e l'altro mio fratello. E dove siete arrivati? Quando siete arrivati in Italia? Siamo arrivati sempre qua, in provincia di Bergamo. Abitavamo prima a Calcinate fino al 2006, dopodiché abbiamo comprato la casa qua a Cividino, a Castelli Caleppio. Ecco, lei... Innanzitutto le volevo chiedere questa cosa, sì. Come se l'immaginava l'Italia? Perché lei è arrivato che era molto piccolo qua in Italia, come con cosa si immaginava dell'Italia? Ma sinceramente io prima all'inizio era tipo una cosa tutta per me nuova, perché alla fine sai, non conoscendo neanche la lingua, una cosa e l'altra, la cultura era tutto diverso per me, però diciamo che adesso mi sono trovato molto bene. Non posso cambiare l'Italia, cioè anche adesso se vado all'estero tipo... sempre voglio di tornare il più presto possibile in Italia, perché alla fine mi trovo bene qua. Ecco, perché poi alla fine lei qui ha trovato anche quella che è la sua strada, cioè lei qui sì. Ha cominciato a correre, no? Ci racconta com'è nata, quando è stata la prima volta che ha corso? Allora, quando ero tipo in Marocco già volevo correre, così volevo fare l'atletica, però siccome mio padre era già qua in Italia e noi abitavamo con mio zio e mio nonno, così mio zio non mi lasciava mai andare a correre, quindi facevo karate, perché per lui tipo fare qualcosa in luogo chiuso va bene al posto di correre, così era un po' una cosa tutta strana, quindi non mi ha mai lasciato andare a correre. Allora giù in Marocco facevo karate, che ero anche molto bravo. Dopodiché quando sono venuto qua in Italia, per i primi 3 anni non ho fatto niente. Poi quando mi sono trasferito qua a Cividino, a Castelli Caleppio, in provincia di Castelli di Caleppio, cioè frazione di Castelli di Caleppio, tipo alle scuole medie, abbiamo fatto la gara, cioè la gara degli studenteschi provinciali, no? E niente, è nata da lì la mia passione, perché c'era tipo un allenatore che era lì, tipo, che ci controllava e ci dava una mano, visto che ero così bravo. Mi ha convinto man mano a iniziare a fare questo percorso. Ecco, però lei praticamente non aveva allenamento, cioè questo No, signore. non avevo niente, proprio zero. Non, perché però facevo tutto diverso, perché facevo prima karate, poi per 2 o 3 anni non ho fatto niente, quando sono venuto qua in Italia non ho fatto niente, sai, già era un problema imparare la lingua, Beh, poi sì. andare a fare altro. Ma e come mai invece però sentiva già da quando era a Casablanca che avrebbe voluto correre? Le Ma piaceva? perché tipo quando giocavamo con gli amici così, bisognava tipo scappare, poi loro ci devono venire a prendere, quindi avevo già capito che qualcosa poteva. Cioè, sentiva che lei su quella cosa era bravo, le piaceva. Sì, però non ho mai avuto neanche, tipo, diciamo, neanche qualche volta per poterla fare, proprio provare a fare qualche gara, zero proprio. Perché non mi lasciava proprio mio zio, allora niente. E suo zio adesso però è No, ancora. vabbè, adesso è soddisfatto, perché alla fine quando sono venuto qua era tipo un altro tipo di vita. E si è reso Insomma, conto che mi sono doveva. trovato bene, però soprattutto grazie anche a quella persona che mi ha convinto di fare questo sport. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Un'ultima domanda. Posso chiederti, Billy, che genere di sensazioni hai quando danzi? Non lo so. Una bella sensazione. Sto lì tutto rigido. Ma dopo che ho iniziato, allora dimentico qualunque cosa. È come se sparissi. Come se sparissi. Cioè, sento che tutto il corpo cambia. Ed è come se dentro avessi un fuoco. Come se volassi. Sono un uccello. Sono elettricità. Sì. Sono elettricità. Diceva così della danza Billy Elliot, praticamente lo stesso della corsa, dice Yassin. Yassin Rachik ha 22 anni, da 10 vive in Italia, è arrivato ragazzino. Durante una gara scolastica è stato notato da un allenatore che ha deciso di investire sul suo talento. Non ha sbagliato. Yassin è un campione azzurro per ben 25 volte, solo che oggi rischia di non poter partecipare ai campionati europei di corsa, perché non ha ancora la cittadinanza italiana. Allora, questa storia qua, io comunque sono sempre stato tesserato in Italia da quando ero cadetto, che quindi da quando avevo 15-16 anni, e sono sempre stato tra i migliori in Italia da quando ho iniziato a fare l'atletica, perché avevo fatto già 2,39 sui 1000, alla mia età era già comunque cioè un tempo molto buono. E niente, mi dispiace tanto anche a me, perché alla fine io, come tutti gli anni, lotto sempre per ottenere i risultati, poi alla fine arrivano tipo l'appuntamento più importante che sia per me che per tutti, tipo gli atleti, e sono sempre i mondiali o le Olimpiadi o gli europei. Quindi è una cosa molto importante per qualunque tipo di atleta. Io tutti gli anni come obiettivo sempre metto solo campionati italiani, poi dai campionati italiani la mia stagione è sempre finita là, perché non posso fare campionati europei né niente per questo problema della burocrazia, nonostante che io sono in Italia da anni ormai, E niente. quindi lei cosa sta chiedendo adesso attraverso Change? Io sto chiedendo solo di avere, cioè, il mio diritto, quello di diventare italiano per poter rappresentare l'Italia, un paese dove sono cresciuto, e lo tengo anche giusto di rappresentarlo, insomma. Comunque lei, al di là di questo, sta continuando ad allenarsi, cioè non sta smettendo perché aspetta, cioè lei continua e comunque spera di poter entrare negli europei. Quello è l'obiettivo di qualunque atleta, infatti è quello che sto facendo. Anche l'altro giorno comunque sono riuscito a fare 13 a 37 sui 5.000 come esordio, che comunque vale i 33 secondi meno dal minimo per gli europei, quindi è un tempo molto buono che ho fatto anche l'altro giorno. E tra l'altro questo, cioè, avrebbe molta importanza anche per noi italiani, diciamo, avere un atleta così forte. Quindi bisognerebbe anche invogliare questa cosa, no? Con questo forse. Ma sinceramente è una cosa anche molto importante anche per l'Italia, perché alla fine, come si è visto anche negli altri paesi europei, che loro per meriti sportivi ti possono dare la cittadinanza, dopo che hai fatto un tot di anni nel loro paese ti possono concedere la cittadinanza. E non lo vedo perché in Italia non si può fare una roba del genere così. Certo. E senta, da un punto di vista psicologico, cosa significa non averla questa cittadinanza? Cioè, quanto pesa? Ma sinceramente pesa tanto, però ripeto, cioè, se lo metti come punto di riferimento non puoi neanche più andare avanti, però alla fine bisogna accettare la realtà, insomma. Gli italiani che lei frequenta, come sono rispetto a questa cosa? Cioè, si battono anche loro insieme a lei? Sì, sono molto d'accordo con me, però alla fine non possono anche loro fare niente, sono molto dispiaciuti. Anche perché è una cosa che dovrebbe essere un diritto che non ce l'ho ancora, questo diritto qua, nonostante che io ho già fatto la domanda, allora ci ho presentato già la domanda 2 o 3 mesi fa e sto aspettando solo la risposta, cioè ho tutti i requisiti. Senta, le faccio quest'altra domanda. Lei si ricorda la prima gara che ha vinto? Sì, la prima gara che ho vinto, sinceramente non sapevo neanche come correre in pista perché per me era una cosa tutta nuova. E niente, per me è stata tipo un'emozione incredibile perché alla fine non aspettavo di riuscire a fare dei certi tempi. Nonostante che mi allenavo una volta o 2 a settimana, sono riuscito a fare la terza prestazione in Italia in quell'anno lì. E che Quindi per me cos'era era una cosa che. molto Ma importante. che gara era quella che ha vinto? Era una gara che ho vinto a Salò, in provincia di Brescia, dove mi aveva portato il mio allenatore. Mi avevo portato in quella gara lì come esordio, è andata molto bene, era anche molto contento. E che sensazione ha provato mentre correva e mentre capiva che stava vincendo? Ma sinceramente prima non riuscivo neanche a capire come si correva in pista, perché era per me tutta una cosa strana, insomma. E poi quando ha visto che stava per vincere, insomma, c'è stato un momento in cui ha capito che stava per vincere. Sì, io ho capito perché alla fine sono riuscito a fare gli ultimi 300 metri, sono riuscito a farli forte. E per me è stata un'emozione incredibile perché non lo aspettavo. Senti, adesso invece, insomma, di medaglie ne ha portate a casa, quindi ormai è anche, cioè, l'emozione si affievolisce o resta sempre forte quando si vince? No, vabbè, diciamo, comunque per me tutti i campionati italiani per me sono sempre importanti, anche un appuntamento per me è sempre importante di riuscire a vincere e confermare quello che sono, come ho confermato sempre in tutti gli anni, ho sempre confermato che sono tra i migliori in Italia, insomma. Lei tra l'altro è musulmano, giusto? Come fa ad allenarsi durante il Ramadan, ad Allora, esempio? durante il Ramadan faccio una vita tutta al contrario, insomma, cioè di solito vado in qualche posto, tipo in altura, o vado quest'anno, vediamo dove andare, o vado a Sestriere, o San Moritz, o Livigno, che diciamo che fa abbastanza fresco là, e mi alleno tipo alle 7 di sera, poi mi alleno anche alle 3 del mattino per poter fare il mio allenamento, insomma. Poi quando ho il giorno dalla gara salto al Ramadan, poi lo recupero più là, quel giorno là. Lei era proprio piccolo quando è arrivato in Italia, aveva più o meno 10-12 anni, giusto? Sì, avevo 11 anni. 11 anni. Com'è stato? Cioè, quando è arrivato, cosa ha pensato dell'Italia? Ma sinceramente ho pensato che cioè, era tipo una cosa per me tutta nuova, poi sai, non sai la lingua, non sai niente, non c'hai ancora gli amici, non c'hai niente. Non era così semplice, però man mano con gli anni, dopo 2 anni così, mi sono trovato bene in Italia, insomma, e posso dire che adesso quando vado in Marocco non posso stare tanto tempo perché mi manca sempre l'Italia, insomma. Che cos'è che le manca di più dell'Italia quando è via? Ma niente, diciamo il clima, la gente, le persone, perché alla fine ho tantissimi amici qua in Italia che mi aiutano e posso dire che sono delle persone molto in gamba. Cioè diciamo che ormai qua c'è tipo tutto un staff che non posso mai abbandonare, insomma. La puntata termina qui. Se volete potete scriverci all'indirizzo la prima volta @radio24.it. Se ci cercate scrivendo radio24-la prima volta, invece potete riascoltare le puntate e interagire con noi sulla nostra pagina Facebook. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli.